Electric Masada in diretta dall'Auditorium Parco della Musica, Ikue Mori al laptop, poi Trevor Dunn al basso, alle batterie, Joey Baron, Kenny Wallace alle percussioni, Ciro Battista, Jamie Saft alle tastiere, Mark Rebo alla chitarra, vero eroe di questa serata, John Zorn al sax contralto e a guidare questa compagine molto debitrice di certo space rock, sembrava, soprattutto per i primi brani, comunque grandissima energia ripagata, ampiamente ripagata dal pubblico, come sentite dagli applausi della Sala Sinopoli qui all'Auditorium Parco della Musica, quindi forte di più di 1000 persone ad assistere a questa serata finale del progetto John Zorn Complete Masada, che apre anche il Roma Jazz Festival versione estiva. Flavio Severini ci ha raccontato in apertura di serata il perché, la motivazione dietro questo progetto che ha portato a Roma 15 musicisti riuniti in varie combinazioni, sempre secondo le varie possibilità appunto offerte dal progetto Masada di John Zorn. Tutti i musicisti risalgono sul palco, credo che abbiamo ancora tempo per un bis, anche se anche questa sera abbiamo completamente stravolto la prospettiva iniziale, che invece tutto sembrava che il concerto dovesse finire prima. Ci sono una serie di richieste, ma insomma credo che il repertorio sia già ben preparato. John Zorn ha preparato tutto, ovviamente prove meticolose, ed eccoli pronti per ricominciare con un bis.